Signori, voi mi vedete sciacquare le bottiglie, disfare i letti e mi date tre spiccioli di mancia e guardate i miei stracci e quest'albergo stracciato come me, ma ignorate chi sono io davvero, ma ignorate chi sono io davvero. Ma una sera al porto grideranno e a chi mi domanderà, tu quel grido sai cos'è? Io ridendo porterò un altro bicchiere, si dirà a ridere che c'è. Tutta vele e cannoni, una nave pirata al molo starà. M'hanno detto asciuga i bicchieri, ragazza, e mi han dato di mancia un senso. Ed ho preso il soldino ed ho rifatto un letto in cui nessuno stanotte tranquillo dormirà. E chi sono nessuno ancora sa, e chi sono nessuno ancora sa. Ma stasera al porto grideranno e qualcuno griderà a chi sparano laggiù. Io ridendo apparirò ad una finestra, si dirà da ridere che ha. E la nave pirata, tutta vele e cannoni, raderà la città. O signori, quando vedrete crollare la città, vi farete smorti. Questo albergo starà in piedi in mezzo a un mucchio di sporche rovine, di macerie, ed ognuno chiederà il perché di questo strano caso, il perché di questo strano caso. Poi si udranno grida più vicine ed ognuno chiederà come mai non sparan qui. Verso l'alba mi vedranno uscire in strada, si dirà ma quella dove va? Tutto vele e cannoni, il vascello pirata, la bandiera sarà. E più tardi 100 uomini armati verranno e nell'ombra tenderanno agguati. Poi faranno prigionieri tutti quanti, li porteranno legati davanti a me. Mi diranno chi dobbiamo far fuori, mi diranno chi dobbiamo far fuori. Si farà silenzio intorno a me e qualcuno chiederà chi dovrà morire, e allora mi udranno dire tutti, e ad ogni testa mozza farò hopla. Tutta vele e cannoni, la galera di Jenny lascerà.